later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli l'altalena oscilla tra depressione e sgomento, K e Drago non fanno eccezione. Guarda, non ho nemmeno più voglia di alzarmi dal pagliericcio per vedere che cosa mi offre una nuova giornata. Come si dice? Tanto cosa vuoi che mi offra? Hai provato a tagliuzzarti le braccia? Perché? Perché i gesti autolesionistici insorgono proprio quando il soggetto è depresso o angosciato. Questa formuletta. E serve a qualcosa? Eh beh, certo, è come gridare al mondo intero: sto male, guardate come sto male. E già ti fai vedere tutto ferito e sanguinante. E certo, ferirsi così va molto di moda tra le adolescenti anoressiche dell'emisfero nord del pianeta. Sembra un'anoressica adolescente dell'emisfero nord. Però potresti sempre imitarle, perché sotto l'equatore però ci sono altre problematiche, non ci sono ancora arrivate queste adolescenti. Appena Bush esporta la democrazia dappertutto, vedrai che si rifaranno anche loro. Sì, ma non basta vomitare, non lavarsi e coltivarsi l'herpes, adesso bisogna pure tagliuzzarsi. Beh, se vuoi stare al passo coi tempi, sì. E tirare sassi dal cavalcavia? Dai, quello è passé, dai, si usava alla fine degli anni 90. E se invece mi limitassi a suonare l'ukulele qui, sdraiato sulla paglia, Guarda così? Che fa molto più adolescente problematico tagliuzzarsi, Ah, sì? Sì. E tu invece suoni. Sì che suono. Ma io suggerirei di tagliuzzarti. Magari i polpastrelli, che non suoni più. La fabbrica di polli. Karek è un giovane pollo sfortunato. Il suo segreto si chiama afasia. L'afasia è la perdita della facoltà del linguaggio che insorge in seguito a una lesione alle aree del cervello deputate all'elaborazione del linguaggio. L'emisfero sinistro del cervello di Tarek è necrotico e questo stato di decomposizione permanente impedisce al povero pollo di esprimersi come vorrebbe. L'aria allegra, entusiasta e genuina di Tarek è un'illusione. In realtà Tarek non riesce ad esprimere che quel tipo di stato d'animo e possiede un vocabolario ristretto a pochi termini. Quindi anche quando è incazzato nero e vorrebbe spaccare tutto, lui, giulivo, dice... Oh. Povero Tarek, vittima predestinata di equivoci d'ogni tipo. Lui non lo capisce, ma dietro l'angolo si nasconde un destino maligno che farà di lui l'ennesima vittima innocente di un mondo dominato dai malintenzionati. Tarek, vieni, Tarek. Vuoi un piatto di pasta asciutta? Allora ti insegno un giochino. Scusi lei, mi sembra un pollo iscritto all'Opus Dei. Io l'ho vista, sa, lei lascia tracce ematiche in città. Scusa, sai, ti do del tu, ma non ti sembra un po' blasfemo stare con le chiappe al vento, con la frusta in mano, a dir l'Ave Maria, Maria, Maria, ti amo. Chiedi a me se vuoi. A me, può essere mortificato. Chiedi a me, vuoi due frustate al volo? Chiedi a me, se vuoi ti recito Baudelaire, i fiori ti faranno male, e spero possano bastare, altrimenti te ne do di più, altrimenti te ne do di più. Cappa, che ora è? Ma lo sai che ora è, basta chiederlo, su. Ah già, La landa dell'eterna mezzanotte qui, no? Potrebbe anche essere il titolo di uno di quei libri che sembrano delle torte confezionate. Delle torte confezionate? Ma sì, sai quelle torte che si richiamano un po' alla ricetta della nonna, no? Gli ingredienti naturali, farina, zucchero, acqua, e che però sono fatte in serie in un capannone prefabbricato vicino all'autostrada. Sembrano genuine e sono artificiali? Intanto io mi tagliuzzo perché... Sì, dai, cappa, Milan Kundera, libri come torte confezionate. Aia, aia. La landa dell'eterna mezzanotte, L'uomo che sussurrava ai cavalli, Pomodori verdi fritti alla stazione del treno, L'insostenibile leggerezza dell'essere, torte confezionate. Aia. Pensa invece a fare un libro che si intitola La museruola del tuo cane è troppo stretta. Secondo te un editore lo pubblica un libro che si intitola La museruola del tuo cane è troppo stretta? Ma se fossi io l'editore, non lo pubblicherei. No, vedi. Però La landa dell'eterna mezzanotte invece lo pubblicheresti. Vabbè, certamente. Anche se è una torta confezionata. Vabbè, ma se sono un editore i libri devo venderli. Come si fa a vendere un libro che si intitola La museruola del tuo cane è troppo stretta? Cosa vuol dire? Aldo Busi ha pubblicato un libro che si intitola Ci vogliono i coglioni per prenderlo nel culo. Quindi, se lo chiedi a voce alta in libreria corri due rischi. Uno, di prenderti due sberle. E due, di incoraggiare già i pederasti presenti in libreria in quel momento. Quindi... Eh beh, si sa, nelle librerie c'è pieno di pederasti. C'è pieno. Partitivo esagerato. Eh? Niente, grammatica, cappa. Tu di grammatica non capisci niente. Forza con le uova, ragazze! Non fatemi arrabbiare, Sapete che io sono dalla vostra parte, però sapete benissimo che sono anche dalla parte dei padroni. Anzi, visto che i padroni sono più potenti di voi galline, io sto più dalla parte dei padroni che dalla vostra, chiaro? Comunque, dalle tabelle che mi hanno appena passato, risulta che con l'introduzione della musica classica la produzione è aumentata del 18%. Però mi dicono anche che dipende dalla musica. Con la musica classica il picco si alza anche del 25%, quando invece c'è il crowd rock rimane stabile, E il crowd rock l'ho proposto io, perché è musica cosmica, da rilassamento. Per cui ragazzi, fatemi un favore, oggi musica classica, però domani, quando è il momento del crowd rock, mi raccomando, non fatemi fare brutta figura e continuate a sfornare uova più che potete, va bene? E che diamine, non ho mica deciso di mettere il Led Zeppelin o Judas Priest, che quelli erano rock e le uova erano famare, no? Il crowd rock poi non è nemmeno rock, è solo crowd, cioè tedesco, ma non è rock. Quindi dovete farvi influenzare positivamente. Quella è musica per l'anima, per la spiritualità interiore ayurvedica che è in ognuno di noi. Spiritualità ayurvedica. Hey man, incredible spiritualità ayurvedica che è in ognuno di noi. Che cosa succederà adesso? Il pollo in sbattimento sta subendo un'ennesima sbandata mistica? O è soltanto un pretesto per convincere le galline ovaiole a fare più uova? Lo saprete sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo indefinibile allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La Fabbrica di Polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com.